Letture di Radio 24. In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, Pierluigi Battista rimpiange i tempi di Norberto Bobbio, quando la sinistra affrontava i propri avversari politici senza sentire il bisogno di insultarli. Ecco, Norberto Bobbio non avrebbe mai scritto un libro intitolato L'idiota in politica, antropologia della Lega Nord. E nemmeno ne avrebbe proposto la sintonica prefazione, come ha fatto Gad Lerner, introducendo il volume dell'antropologa francese Linda De Matteo, appena uscito da Feltrinelli. Il papa laico del tanto vituperato azionismo torinese non avrebbe mai osato apostrofare come idioti i suoi avversari, anche se considerati pericolosi. Non conosceva il disprezzo del nemico, non si pavoneggiava nella superbia di chi si sente un monopolista dell'etica e della ragione, non insultava chi era diverso da lui, a differenza dei suoi tardi e già esausti epigoni, che, a differenza del maestro, vantano una presunta superiorità morale, senza averne nemmeno lontanamente i titoli, la tempra, il pedigree, lo spessore culturale. Oggi è un festival dell'insulto antropologico dettato dal razzismo etico già segnalato e da tempo da Luca Ricolfi. Bobbio no, con la sua grafia chiara ed elegante, scriveva lunghe lettere agli interlocutori con cui si trovava in radicale dissenso e che magari lo avevano attaccato senza l'urbanità dei modi che lui esibiva con tanta naturalezza. Non era un conformista e già negli anni 40 dedicava impegnative e meditate recensioni all'edizione in lingua originale della Società Aperta e i suoi nemici, di Karl Raimund Popper, che le case editrici italiane, così allergiche al pensiero libero e critico, avrebbero atteso almeno una trentina d'anni prima di tradurre e pubblicare. Quando negli anni 90 venne fuori quella sciagurata lettera al Duce, scritta durante il ventennio, Bobbio diede prova di una straordinaria dignità, riconoscendo la sua debolezza giovanile e non dando retta agli zelanti epigoni che, mettendosi a blaterare in coro di complotti revisionisti, pretendevano dal maestro la stessa boriosa arroganza di cui si sono dimostrati capaci nel corso di questi anni. Bobbio vergò parole di fuoco su Berlusconi, ma non si conoscono suoi scritti in cui venivano svillaneggiati e derisi gli elettori berlusconiani. Ecco la differenza. Semplicemente non li considerava dei decerebrati, dei selvaggi schiavi dei più bassi istinti, degli idioti, sia pur nel senso letterario e paradossale che si dice abbia ispirato il titolo del libro della De Matteo. A dispetto di chi ne vanta arbitrariamente l'eredità, oggi dovremmo avere nostalgia di un intellettuale del rango di Norberto Bobbio. E chi, tra i quali chi scrive, lo criticò, facendone il simbolo di un azionismo torinese prigioniero di una sindrome moralista troppo indulgente, nel nome della comune questione morale, con la cultura dell'italo-comunismo, oggi dovrebbe riconoscere un grave errore di valutazione. Ristudiare Bobbio, affrancandolo dalla gabbia conformista costruita dai suoi immeritevoli eredi, così sideralmente lontani dalla cultura e dall'etica del rispetto incarnate dal maestro ormai scomparso, un maestro da rimpiangere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pierluigi Battista «Bobbio non chiamava idioti gli avversari» dal Corriere della Sera del 27 giugno. Al termine del lungo periodo di sperimentazione, la carta d'identità elettronica sta finalmente per essere introdotta in modo definitivo nel nostro paese, ma non prima di aver subito l'ennesima mutazione. Se volete trovare un paradigma dell'incertezza, puntate sulla carta di identità elettronica. In 14 anni ha cambiato veste, prezzo, scadenza, modalità di emissione. E proprio ora che dopo un lungo periodo di sperimentazione si apprestava a trovare stabilità, l'ultima ennesima proroga ne assicura la diffusione entro gennaio 2012, succede che si deve ricominciare da capo. Il decreto legge sviluppo approvato dalla Camera con il voto di fiducia e dunque avviato a essere licenziato tale e quale dal Senato prevede che la carta di identità elettronica, CIE, si sposi con la tessera sanitaria, sia obbligatoria e gratuita, la si possa richiedere anche per i neonati, se ne occupi non più solo il poligrafico, ma anche la SOGEI. Risultato, tutto quello che è stato fatto finora va dimenticato, o quasi, costi compresi. A oggi sono state investite decine di milioni per mandare a regime l'emissione della CIE. Il piano industriale messo a punto dal poligrafico nel 2006 stimava in 537,6 milioni i costi per assicurare quasi 49 milioni di carte, che all'epoca avevano però una validità di 5 anni. Nel 2008 la vita della CIE è stata raddoppiata e ora il rinnovo avviene dopo 10 anni, con un risparmio che il Ministero della Semplificazione, artefice dell'allungamento della vita della tessera, aveva a suo tempo stimato in 15 milioni. Al netto di tali conteggi, sta di fatto che parte degli investimenti già effettuati e che hanno assicurato l'emissione da parte dei 180 comuni coinvolti nella sperimentazione di non più di 3 milioni di CIE, sono senz'altro da ricalibrare. I costi della nuova carta non si esauriscono però nei soldi già spesi. Si devono infatti sommare anche le risorse necessarie per attuare 4 novità previste dal decreto sviluppo: l'obbligatorietà della CIE, il fatto che ne potranno disporre anche i minori di 15 anni, la sua gratuità e, soprattutto, il dover rimettere mano all'intero progetto, perché la carta di identità elettronica dovrà abbinarsi alla tessera sanitaria. L'obbligatorietà unita all'abbassamento del limite di età, oggi la CIE si può richiedere solo dopo i 15 anni, porta a coprire l'intero arco della popolazione. Tutti dovranno dotarsi del nuovo documento di riconoscimento. Non solo. Fino a 3 anni di età, la CIE avrà una validità triennale. Fra i 3 e i 18 anni, la validità sarà di 5 anni. Dopo la maggiore età, la carta dovrà essere rinnovata ogni 10 anni. Dunque, un maggior numero di tessere e, in particolare, un ricambio più stretto nei primi 18 anni di vita della persona. Insomma, molte più carte da emettere. Se questa novità si coniuga con l'altra della gratuità, è facile capire che lo Stato dovrà mettere mano al portafoglio per pagare milioni di nuove CIE. Finora, infatti, il costo della carta di identità elettronica è stato a carico del cittadino. Si tratta di 20 euro, 13 di produzione e 7 di gestione e distribuzione, a cui vanno sommati i costi amministrativi, per un totale di 25 euro. Ci sono poi da considerare i costi relativi al nuovo progetto, quello che dovrà abbinare la CIE alla tessera sanitaria e che dovrebbe costare 600 milioni, valutazioni che possono contare su un abbattimento dei costi delle tessere. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, la carta può essere realizzata con una spesa di 10 euro contro i 20 attuali. Ma che rimangono una bella cifra, considerato quanto già fatto e già speso, e tenuto conto delle condizioni del bilancio statale. Ma non sono solo i conti pubblici a essere chiamati in causa. Ci sarà da risolvere anche un problema di raccordo all'interno della nuova carta, perché la tessera sanitaria ha oggi una validità di 5 anni, contro i 10 del documento di riconoscimento. Per non tornare, sul versante della CIE, indietro ancora una volta riportando la validità a 5 anni, con conseguente aggravio delle spese, l'unica soluzione plausibile è fissare anche il rinnovo della tessera sanitaria dopo un decennio, un conto che, almeno questo, si può far quadrare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Antonello Cherchi, Carta d'identità da rifare, dal Sole 24 Ore del 27 giugno. Cosa si deve fare quando la propria città viene invasa da un esercito di morti viventi? Dagli Stati Uniti arriva un piano di emergenza per difendersi dagli zombie. Tra tornado, uragani ed epidemie, le autorità statunitensi hanno trovato il tempo per occuparsi anche di un'altra possibile emergenza, un'invasione di zombie. Sul blog di Ali Eskan, un esperto dei Centers for Disease Control and Prevention, CDC, tra i più importanti organismi di controllo sulla sanità pubblica americana, è apparso un elenco di raccomandazioni in caso di incontri ravvicinati con morti viventi. In uno scenario del genere, gli zombie prenderebbero il controllo di intere regioni, percorrendo le strade delle città, mangiando ogni essere vivente che incontrano sul cammino. Che fare, quindi? Si chiede Khan. Dispensando poi una serie di consigli pratici che vanno da come assemblare un kit d'emergenza, acqua, cibo, medicinali, attrezzi, vestiti, lenzuola e documenti personali, a come organizzare la resistenza. Stabilire un luogo d'incontro con i propri familiari, abbandonare subito la città studiando vari percorsi possibili che confondano gli zombie, memorizzare i contatti del personale di soccorso, medici, polizia, vigili del fuoco. La campagna è naturalmente una provocazione. Il portavoce del CDC ha spiegato che le tradizionali campagne di allerta sui tornado non sono molto sexy e non le guarda nessuno. Il comitato spera che questo escamotage sensibilizzi i cittadini su come tenere un comportamento responsabile durante una situazione d'emergenza che quest'anno si è già verificata più volte. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefania Mascetti, Dai morti viventi difendetevi così, da Vanity Fair del 29 giugno.